Con Alessandro Fabrizi, traduttore del Frankenstein 1818 per l'edizione di Neri Pozza in uscita il 18 ottobre, legata anche a un evento, alla lettura ad alta voce del libro a Roma, alla Casa delle Letterature. Alessandro, ben trovato. Ben trovato a te Federico, ciao, ciao a tutti. Sì, Il 31 ottobre, giusto? il 31 ottobre per Halloween. Dunque, allora, la storia è questa, tu in parte la sai, Neri Pozza ha deciso di pubblicare per l'anniversario dei 200 anni dalla prima pubblicazione della prima versione del Frankenstein, 1818. Mary Shelley lo pubblicò anonimo nel 1818, senza firmarlo. E di fare una nuova traduzione italiana dell'edizione 1818, che tra l'altro non è quella che si trova generalmente, siamo abituati a leggere quella del 1831. E quindi hanno chiesto a me di tradurlo e l'abbiamo anche messo subito alla prova a voce alta alla festa di teatro ecologico a Stromboli a giugno, Sì. in cui appunto cinque attrici, Laura Mazzi, Silvia Gallerano, Manuela Mandracchia, Maia Sanza e Cristina Donadio l'hanno letto ad alta voce, sfidandola in intemperie, e perché i primi giorni il tempo era anche brutto, non era molto in clima con il romanzo. Dopodiché ci siamo detti più o meno sempre, facciamone una lettura ad alta voce anche a Roma, quando esce il libro, che appunto esce il 18, e abbiamo scoperto che la Keats Shelley Association of America aveva indetto appunto una giornata mondiale di lettura ad alta voce del Frankenstein per il 31 ottobre, per Halloween. E quindi abbiamo aderito a questo progetto e, a parte Manuela e Silvia, che purtroppo, Mandracchia e Gallerano, che purtroppo sono in scena in due posti diversi d'Italia, quindi proprio materialmente non potrebbero, non avendo il dono dell'ubiquità, essere con noi, però Laura Mazzi, Maia Sanza e Cristina Donadio hanno aderito, adesso stanno aderendo altre attrici, per cui faremo questa lettura sempre al femminile, per ricordarci poi che la voce, la penna, la mano del Frankenstein era quella di una donna, è una donna che lo ha scritto. Siamo stati accolti da Casa delle Letterature a Roma e faremo questa maratona di lettura dalle 4 alle 11. Rispetto al testo, quello del 1818, sei stato fedelissimo o in qualche modo hai modernizzato? Il libro è estremamente moderno, è Parlo estremamente proprio dei moderno. vocaboli, comunque. Allora, non mi ricordo, c'era stata una parola che avevamo discusso con i colleghi, non me lo ricordo più. Ma non mi sento di aver modernizzato, ho Ok. cercato di renderlo fruibile senza intoppi. Certo, l'ho scritto nella mia lingua, l'ho scritto nella lingua che parliamo. Inevitabilmente, però, ci sono parole più ricercate che, a Certo. parte che il linguaggio che parliamo oggi, da una parte molto povero, dall'altra molto ricco di parole straniere, no? Di tanti neologismi che chiaramente non ho potuto mettere in quel contesto perché sarebbe stato un modo di snaturare l'atmosfera del libro, no? Per cui in questo senso no, non l'ho modernizzato, però certo l'ho tradotto in una lingua che ci è familiare, insomma, non con troppe estranezze. Ma devo dirti che la lingua della Shelley non ci sono vocaboli particolarmente desueti, c'è forse una costruzione Sì, della sì, frase che a volte è un po' faticosa, sì. poi che sono io per dire che è faticoso, è stato un romanzo che ho letto tantissimo in tutto il mondo, un grandissimo successo, forse, cioè, credo sia stato molto molto molto letto, poi anche al di là del fatto di essere stato letto è proprio una storia, no? Che anche per chi non l'ha letto, non ha letto il romanzo, è nota. Alessandro, ne avevamo già parlato, ma comunque torniamoci sopra. Cosa hai apprezzato in particolare dello stile e anche del contenuto della Shelley? Intanto volevo anche dire che questa edizione di Neri Pozza ha dei bellissimi apparati critici, ma è anche in più arricchito da una formidabile, bellissima introduzione di Nadia Fusini, che ci aiuta molto ad entrare e percepire e godere della lettura del libro tutti i suoi vari aspetti. E qui arrivo a risponderti, perché quello che ho veramente apprezzato nel leggerlo così da vicino, come si fa quando si traduce, è proprio la complessità dei temi che mette in gioco. mette in ballo, che ci riguardano tantissimo, ci toccano profondamente. Ora ce ne sono tanti. C'è tutto il problema che la stessa Shelley ha intorno all'altare vita, legato alla sua biografia. C'è l'eco dei movimenti politici e sociali dell'epoca in Inghilterra, ma la cosa che mi ha colpito di più e mi ha toccato è proprio questo rapporto con ciò che si è creato, no? Il dottore crea qualcosa che non accetta e non accettare quello che ha creato causa una serie di catastrofi e di malessere, di dolori che non finiscono mai, che vengono proprio dal suo non accettare ciò che ha creato. D'altra parte lui ha creato effettivamente una creatura mostruosa e non sapremo mai veramente fino alla fine, anche se il comando ci porta molto a partecipare con la creatura, però non sapremo mai se in fondo se questa creatura avesse conosciuto l'amore, l'affetto e il bene non avrebbe compiuto i crimini che compie oppure li avrebbe compiuti lo stesso, chi lo sa? Ecco, ho apprezzato questo del romanzo che ti lascia un sacco di interrogativi, è molto ricco, non a caso credo che ancora lo leggiamo e ancora troviamo interesse nel leggerlo. Oh, e ci saranno altri eventi oltre a questo, visto che insomma questa edizione della Festa di Teatro Ecologico a Stromboli è stata dedicata tutta al Frankenstein. Ecco, nel corso dell'anno ce ne saranno altri di momenti? Non lo so per ora, so che saremo con Nadia Pusini, saremo un po' in giro per l'Italia a presentare questa traduzione. Sì. Stanno succedendo anche altre cose, c'è una carissima amica, bravissima scrittrice che si chiama Lisa Ginsburg, che ha scritto un libro su Frankenstein e che anche lei è in giro per l'Italia a presentarlo. So che un filosofo che ha partecipato alla Festa di Teatro Ecologico sta scrivendo un libro sulla Shelley e soprattutto che è Emanuele Coco, sta scrivendo un libro sulla Shelley soprattutto in relazione alle scoperte scientifiche del tempo, Sì. che è un po' l'intervento che lui ha fatto alla Festa di Teatro Ecologico. Per cui sì, mi sembra che, non so dirti esattamente cosa, però mi sembra che dalla festa si sta diramando un po' di rami di esplorazione. Di questo evento c'è il relativo evento Facebook. Ci dai altre indicazioni web per saperne di più anche sul libro? Sul libro c'è il sito di Neri Pozza dove ci sono varie Sì. informazioni e tra l'altro oggi è uscito il libro del 18, il cartaceo, però è in vendita anche l'ebook online, che si può comprare online. E poi ci tengo a dire che io non so come sarà, perché a Stromboli l'abbiamo letto in 5 giorni diversi, quindi con insomma, 24 ore di riposo fra una parte e l'altra, però abbiamo visto che sembra, no, che abbiamo tutti bisogno, ci piace molto sentirci raccontare le storie ad alta voce, è stato un grande successo questa lettura a Sì. puntate del testo, insomma anche i bambini la seguivano appassionatamente, quindi sono curioso di vedere come sarà sentirselo leggere in un'unica tirata, anche se ovviamente non sarà un'unica tirata, nel senso che faremo un quarto d'ora, 20 minuti di pausa tra una parte e l'altra, il pubblico è invitato a entrare e uscire quando vuole, perché non si può pretendere che nessuno stia 6 ore seduto ad Certo. ascoltare e raccontare una storia, però se vuole, se si appassiona bene. Però ecco, mi piace molto l'idea di riproporre proprio la lettura ad alta voce, la scrittura che arriva trasportata dalla voce umana. Ricordiamo allora l'evento Frankenstein 1818 ad alta voce a Roma, alla Casa delle Letterature, il prossimo 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, per celebrare anche la nuova edizione Neri Pozza. Un saluto e un ringraziamento al traduttore Alessandro Fabrizi. Alessandro, in chiusura ci ricordi anche gli orari e le partecipanti? Allora, cominciamo alle 4 con Nadia Fusini ed io che saluteremo e Nadia forse insomma, introdurrà il romanzo e poi alle 4:30 leggiamo la prima parte, la leggeranno Nadia Fusini e Laura Mazzi, poi alle 5:45 leggiamo la seconda parte, alle 7 la terza, alle 8:30 la quarta e alle 9:30 la quinta e tra le altre lettrici ci sono Maya Sansa e Cristina Donadio. Alessandro, un abbraccio e A un in te. bocca al lupo e mi sa che ci vediamo lì. Certo, aspetto, ci vediamo lì, aspetto tantissime persone. Grazie Federico.